ottica del predicante, debole ma attento alle attenzioni della mente. È il gioco di adattarsi e omologarsi alla struttura, ti fa felice e complice in un clima di paura. Mi sento uomo occidentale ancora un altro po', un lato da denaro e dal respiro che non ho. Quando infastidito dal nostro benestare, di uomini su uomini che contano le ore, proprio nel giorno in cui, dondolando nell'attesa, usando l'ignoranza come arma di difesa, mi scusi, non sapevo, e distratto all'apparenza di vivere una vita respirando benestanza, cercando di confondersi tra classi superiori per non sembrare poveri tra poveri signori. Con le tue guerre per il potere, ma potere è di chi riesce a farsi sentire, sentire a gran voce, cantare in coro, combatto per me. Con le tue guerre per il potere, ma potere di chi riesce a farsi sentire, sentire a gran voce, cantare in coro, combatto per me. Non per me. Questa è la rivincita del popolo sul re, la vendetta fatta di carne, sudore, pianto, dolore, la libertà mia, la nostra, la tua. Questa è la rivincita del popolo sul re, la vendetta fatta di carne, sudore, pianto, dolore, la libertà mia, la nostra, la tua libertà. Le tue guerre per il potere, ma potere di chi